Allora, scusate per l'attesa, dovremmo essere collegati con l'undicesimo municipio. Ci sei, Gabriele? Pronto? Pronto? Pronto, ci sei? Sì, scusa, ma ti sento veramente basso. Allora, no, noi ti sentiamo bene, quindi non aver problemi. Dunque, la notizia, daccela tu, insomma, quella di stamattina. Sì, diciamo che la notizia non è purtroppo completamente positiva, nel senso che i compagni stanno fuori, sono usciti a mezzogiorno. Dopodiché comunque è stata convalidato per ora l'obbligo di firma due volte a settimana, quindi ovviamente diciamo che la notizia di una completa libertà non ci è arrivata. E sabato mattina ci sarà l'inizio del processo e appunto restano le accuse di lesione e resistenza. E quindi niente, insomma, la questione ovviamente già non era completamente limpida e risolta, e adesso continua a rimanere abbastanza torbida. E quindi niente, insomma, l'indignazione è alta. Ora si sta svolgendo in municipio una conferenza stampa molto partecipata, meno dai giornalisti, ma vabbè, insomma, coscienti anche di tutto quello che sta succedendo a Roma, era scontato. E niente, lanceremo, insomma, lo lancio già adesso per radio, questo corteo che venerdì attraverserà le vie di Garbatella, e ripassando, insomma, in prossimità del sotto la casa dove è avvenuto lo sfratto. E l'idea è quella di farlo finire, insomma, al deposito occupato dell'ATAC, sperando che venerdì saremo ancora tutti e tutti là, e essendo, insomma, anche, diciamo, l'ultima vertenza e battaglia grande, importante e cittadina che stiamo affrontando in undicesimo. Va bene, dunque la conferenza stampa, mi dicevi, è iniziata, insomma, sì. Avete la possibilità quantomeno, insomma, di dire alla città quanto è successo. Decisamente pesante comunque il clima che si è instaurato a Garbatella oggi con le cariche a Montecitorio, ma insomma questa notizia che ci hai dato, visto che inizialmente in realtà avevamo capito che c'era stato un rilascio senza ulteriori implicazioni, invece non è andata così, non è andata così. Sono confermate le firme, sì. Va bene, Gabriele. Allora, grazie per il tuo contributo, e a risentirci presto, sicuramente per venerdì, quando ci sarà questo corteo a Garbatella. Va bene, alle 18 da Palladium, vicino alla strada, insomma. Ciao, grazie. Ciao, un abbraccio.